Fratelli d'Italia, l'Italia alle vesta, dai tempi di Cipro finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci, cari ascoltatori, carissimi nostri ascoltatori del sabato mattina, in questo sabato 5 dicembre, sono le 17 primi e 47 secondi, l'intera compagnia dei Conti della Belva vi saluta e vi ringrazia di essere in ascolto. Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino in questo sabato, spero che altri si aggiungano di sabato in sabato, la banda di inculcatori, come un ascoltatore che in realtà ci ha fatto molto piacere, ci ha definito sabato scorso, inculcatori no, ma comunque fieri di avere quella C che fa la differenza all'interno del termine inculcatori. E subito vi diciamo di che cosa parliamo oggi, nel ricordarvi oltretutto che trovate come sempre temi e ospiti della trasmissione di oggi, se andate sul sito Radio 24 vedete trasmissioni Conti della Belva e trovate tutto, ma in ogni caso vi dico subito di che cosa parliamo. Il numero di telefono per intervenire è 800 24 800 24 800 24 00 24 00 24, 349 238 6666, per gli sms. Allora cominciamo come tutti i sabati con la nostra rubrica A che punto è la crisi, con Mario Seminerio, perché oltretutto questa è stata una settimana densa di dati, per così dire, tra i dati Banca Italia, di cui poi approfondiremo nella seconda parte della puntata, quelli Ox sulle pensioni, l'Istat che rivede crescita, e c'è il punto anche sul mercato del lavoro, quindi c'è molto molto da dire, con un premier che insomma ieri sera nella sua newsletter ha dovuto un po' ripiegare ammettendo per la prima volta, beh sì, c'è qualche segno di rallentamento, quindi questo una seria analisi di quello che ci capita. Non riesce l'Italia a, per così dire, estrapolarsi dal mondo, ed era abbastanza evidente che fosse così. Dopo questo abbiamo un blocchetto di riflessione con l'amministratore delegato e direttore generale di Conad, e con l'amministratore delegato di Conad faremo una riflessione dal suo punto di vista su uno insomma degli aspetti dell'Italia di questi anni, cioè quello che praticamente non ci smuoviamo quasi nelle graduatorie internazionali della concorrenza, come spunto l'indice delle liberalizzazioni del Bruno Leoni, non ci siamo quasi mossi in un anno, siamo a metà classifica europea, e vediamo che cosa ci dice Francesco Pugliese su questo. Poi un bloccone di riflessioni appunto sui dati elaborati e resi noti dalla Banca d'Italia l'altro ieri su reddito e ricchezza delle famiglie italiane 2014, un blocco di dati molto interessante con delle cose che smentiscono dei luoghi comuni, altre che le confermano drammaticamente invece, insomma un paese che ha dei serissimi problemi di fronte a sé, e ne parliamo con una studiosa che ai nostri occhi ha il merito in tutti questi mesi di essersi impegnata con grandi risultati nella battaglia di chiarezza antimanipolatoria dei dati pubblici dell'economia, Marta Fana, e con Marta Fana appunto vedremo a suo giudizio e a nostro giudizio che cosa ci colpisce di più e quali sono i segnali più allarmanti che vengono dal rapporto Banca Italia sul reddito e patrimonio delle famiglie italiane. Poi come ogni sabato con Rita Fatiguso da Pechino, un punto sulle banche cinesi, cioè ma in Cina come funziona la tutela davvero del risparmiatore, ce lo faremo spiegare da lei. Vedremo che recentemente ci sono state novità, ma prima era insomma un paese di... Ma volevo sapere una cosa, Oscar, in Cina hanno le fondazioni. Ecco appunto, cioè, comunque scopriremo che una minima tutela dei depositanti c'è da pochissimo in Cina, quindi era da questo punto di vista un paese darwiniano capitalista, molto più di noi. E poi naturalmente la chiusura con Renato che ci dice che cosa non si può fare con un esempio degli errori italiani. Ma torniamo, cari amici gufi dei Conti della Belva, su che cosa vi ha colpito questa settimana. Caro Alberto, sono un po' arrabbiato dai miei amici americani perché la gestione sia culturale che politica della strage di San Bernardino non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta prima di tutto quello che ha messo su stanotte dei giornali americani, e cioè che i vicini di casa di questi signori hanno ritenuto inopportuno segnalare i movimenti che stavano accadendo in questa casa, perché, capite, è politicamente scorretto in California prendersela con minoranze vocianti e attive, e secondamente perché il governo, e qui ne parlavamo prima con te Oscar, di fatto per 3 giorni, 4 giorni ha depistato metà dell'opinione pubblica mondiale, forse tutti, negando una diciamo evidenza che invece doveva essere secondo me comunicata molto prima. Quindi sono arrivato perché non si fa così ad aumentare la consapevolezza del rischio, soprattutto a chiedere ai cittadini di guardare in faccia il pericolo e di mobilitarsi, ecco, senza fare discriminazioni, ma avendo vigilanza molto molto attiva. Tutti noi dell'Occidente abbiamo bisogno di grande vigilanza attiva su questo. Condivido, mi sembra che abbia voluto deviare su faccende di politica interna il fatto che debba ammettere tornerò a poterci attaccare a casa nostra. Questo è che è il bilancio ovviamente amaro di una politica sia estera che interna, quindi condivido quello che dici. Invece Mario? Ma adesso torneremo anche sul discorso della crescita, dell'occupazione eccetera, però la cosa che a me sta facendo sorridere in questi giorni è questo dibattito filosofico metafisico tra lo 07, 08, 09. Ora, adesso io vorrei dire anche a tutti i giornalisti, diciamo, no, che io per sbaglio ho il tesserino di pubblicista, quindi alla fine mi sento un po' parte della grande famiglia, sia pure dalla porta di servizio, ma scusate, ma mi spiegate qual è la differenza tra 07, 08 e 09 sul piano sostanziale? La spiego io, è che stiamo adottando il sistema metrico decimale, quindi. No. Sì, sistema metrico decimato, nel senso che perdiamo i pezzi. E poi, vabbè, no, sapete qual è l'unica vera differenza? A parte sentire delle aberrazioni del tipo sì, però sarà 08 perché il calcolo non è corretto per i giorni lavorati, nel 2015 ci sono 3 giorni in più, allora nel 2016 come ti va a finire? Maluccio, temo, no? Sì, ma il punto spariscono. Vero, diciamo, al di là, diciamo, dell'aspetto comunicativo che è pura demenzialità, diciamolo tutto, che questo non è neanche un film comico, non è neanche un film grottesco, no, il discorso è un altro: il piccolo buco di entrate fiscali rispetto a quello che è stato scritto nei documenti ufficiali. Cioè, questo chi di 0,2 ferisce, di 0,2 perisce. Cioè, con questo 0,2, la sicurezza, gli immigrati, le macchie solari e quant'altro, adesso ci manca esattamente uno 0,2% di PIL, che sono soldi. Ecco. Eh già, che sono soldi. Ma del resto questa, caro mio, se dovessi dirti, dammi un titolo giornalistico per sintetizzare questo surreale, peraltro, vicenda di 0,1, 0,2, il mio titolo sarebbe è la Fisco Dance, ragazzi. È la Fisco Dance. Cioè quella in cui quello che conta è l'illusione più che la sostanza. Stiamo parlando di cose in effetti la cui unica conclusione stimata è quella che dice Mario, secondo me, cioè ulteriormente sotto la linea di quello che serve per l'equilibrio. Vedremo Bruxelles, perché in questa settimana si è capito anche da Draghi che in realtà i guai sono superiori rispetto a quello che si pensa, quindi Draghi ha aperto una finestra come mai aveva fatto la richiesta di flessibilità, quando gli è stato chiesto come giudica la guidance della flessibilità applicata dalla Commissione Europea. Per la prima volta ha detto la BCE si riserva di valutare, perché può essere che sia giusto avere una flessibilità maggiore. Renato, questa settimana? Partiamo dal global, passiamo per l'Italia, andiamo al local. Io invece sono infastidito dalle movimenti nella zona nostra delle aziende e servizi municipalizzati. Perché c'è tutto questo. Allora, sai che a Pavia abbiamo avuto questa SM che ha perso per strada un paio di milioni, ma adesso sono spariti anche gli articoli sui milioni spariti. Ma detto questo, ci sono alcuni comuni che stanno rientrando, che erano falliti, Tortona, che stanno rientrando dentro le ASM. Il tutto mi infastidisce perché tutti questi movimenti non sono fatti per un piano industriale, ma l'unico motivo che hanno i comuni per entrare nelle ASM locali è quello di poter affidare i servizi in house senza fare alcuna gara. Eccoci qua. Ma adesso ne riparliamo allora subito dopo con l'amministratore delegato di Conad quando parliamo di concorrenza. Io devo dirvi, cari amici, che invece questa settimana e stamattina, anzi, apprendo una cosa che mi fa di nuovo sobbalzare relativa a Ilva. Ilva l'abbiamo dal 2012 nazionalizzata grazie alle procure con una procedura giudiziaria prima del processo, espropriata senza indennizzo, e come sapete i giudici svizzeri giustamente hanno detto: col cavolo che vi diamo altro 1,2 miliardi dai conti della famiglia per darli a voi che li volete devolvere a un'azienda prima che ci sia un processo e senza garanzie di loro tutela patrimoniale se fossero per caso innocenti. E detto questo, adesso il Consiglio dei Ministri deve di corsa prendere un provvedimento, perché altrimenti scatta inesorabilmente la procedura europea per aiuti di Stato. E adesso tornano a dire che entro giugno c'è una newco di privati, perché la devono vendere, perché sennò Bruxelles taglia la testa. Comunque, perché la chiusura arriva e oltretutto lo Stato si trova esposto per miliardi, mentre siamo usciti dalla top 10 dei 10 più grandi paesi produttori di acciaio a fine ottobre. Quello che manca è appunto la produzione dell'Ilva pubblica espropriata, che oramai non c'è più. I concorrenti, come ovvio, contano oramai che venga chiusa, e così regoliamo anche la sovrapproduzione europea, e i concorrenti cinesi e indiani ringraziano. E questa newco che si annuncia dei privati è naturalmente CDP, è una barca di falliti quella che gestisce così questa triste vicenda di degrado italiano. Ci sono decine di migliaia di persone che rischieranno il posto di lavoro per una vicenda tragica sin dall'inizio. Ambientale sì, ma anche la totale miopia di procedere a espropri e nazionalizzazioni giudiziarie senza senso. Torniamo tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta della belva. Ed eccoci tornati con tutti i compagni di Conte la Belva qua in diretta, e partiamo subito con la sigla di A che punto è la crisi, o meglio, Seminero in crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci qua. Allora Mario, da quale dei tanti dati e degli spunti di questa settimana vuoi partire? Cioè, mi pare che l'occupazione, il dato di occupazione, il dato di PIL svettano. Sì. Diciamo, a ottobre abbiamo avuto un mercato del lavoro non particolarmente brillante, però sono certo che tutti voi all'ascolto avrete colto soprattutto il fatto che la disoccupazione è ai minimi degli ultimi 3 anni. E questo purtroppo, ripeto, al netto di chi ha deciso di sputtanarsi una discreta carriera accademica, professionale, personale, dando corpo a delle cose che sono assolutamente inesistenti, e questo lo lasciamo da parte, direi che i fatti non sono come vi vengono presentati. Cioè, negli ultimi 2 mesi abbiamo 84.000 occupati in meno. Aspetta, ripetiamo, negli ultimi 2 mesi abbiamo 84.000 occupati in meno. Negli ultimi 2 mesi abbiamo 98.000 inattivi in più. Inattivi in più. Esatto. Questa è l'Italia col segno più, l'Italia inattiva. Esatto. Cioè praticamente una ripresa inattiva. Poi, tra l'altro, se guardate i dati Istat, perché lì sono i numeri, nel mese di ottobre, che è il dato che è uscito in settimana, gli occupati sono calati in tutte le coorti anagrafiche. Ok, in tutte le coorti anagrafiche sono calati, ad eccezione degli over 50. Se guardiamo la variazione annua, perché non dobbiamo soffermarci e impiccarci sul dato mensile, la fascia 35-49 anni, che dovrebbe essere quella del massimo vigore, della massima progressione di carriera o tutto quello che volete voi, la fascia più vitale, ha perso nell'ultimo anno 175.000 occupati. 35-49 anni, totale occupati in diminuzione di un anno di quanti? Di 175.000 unità. Ok. Gli over 50 nell'ultimo anno sono aumentati di 226.000 unità. Ah. No, qui bisognerebbe fare una riflessione. E pensate, se qualcuno tra voi ha in testa la staffetta generazionale e altre cose del genere, Abbiamo una notizia per voi: malgrado il continuo aumento di occupati negli questa fascia d'età dei seniores, il tasso di occupazione in questa fascia d'età in Italia è comunque inferiore rispetto alla media europea, per cui dobbiamo ancora fare strada. Nell'ultimo anno il tasso di inattività è cresciuto per tutte le coorti anagrafiche con l'eccezione degli over 50. Ultimo dato, perché poi dopo cambiate canale, anch'io cambio canale da me stesso. A dicembre 2014 in Italia c'erano occupati a tempo indeterminato 14.526.000 persone. Oggi sono 14.527.000 persone. Mille in più. Ok? Mille. Nel mezzo ci stanno sussidi di decontribuzione di 8.000 euro a persona per gli imprenditori per 3 anni, che andranno con il decalage nei prossimi 2. Quindi, però vi hanno detto che è diminuito il tasso di disoccupazione. Certo. Però se voi guardate i dati statistici nei fogli Excel di Istat, andate sul sito e scaricate, vedrete che il tasso di attività negli ultimi 12 mesi, ottobre 15 su ottobre 14, è diminuito di alcuni decimi di punto percentuale, perché il tasso di attività di questo paese è su un trend calante. Dopodiché, se tutti continuano a dirmi che l'Italia è ripartita e sta ripartendo, io, scusate, ma mi incazzo. Ma no, ma perché questa può è anche ripartire per la perdizione. Malafede frammista ad ignoranza. È ripartita con un tasso che è la metà della media europea. Abbiamo già pronto sulla rampa di lancio gli alibi del terrorismo, esattamente come successe all'epoca delle Twin Towers con Tremonti, per cui questo paese mantiene una continuità storica nei suoi leader pro tempore. E poi parliamo un attimo di PIL. Vedo che magari anche adesso Carlo Alberto ha delle considerazioni aggiuntive da fare. Il PIL più 0,2. La domanda interna, quindi escludendo le scorte, negli ultimi 4 trimestri cresce dello 0,2%, costante, ok? Che altro si può dire? Il contributo degli investimenti alla variazione del PIL negli ultimi 4 trimestri è, ascoltate la sequenza, 0, più 0,2, 0, meno 0,1. Quindi, questi sono numeri. Il dato preoccupante è quello dell'export, però vogliamo dirlo, specialmente per chi pensa che basti un po' di svalutazione per far ripartire il paese. L'export dà segnali purtroppo non incoraggianti, siamo meno 0,4, vero Mario? Esatto, e questo comunque è condiviso perché sta colpendo abbastanza omogeneamente i paesi sviluppati, ma soprattutto la crisi dei paesi emergenti. Aspetta, fermiamo un secondo ancora sull'economia reale. Quanto all'economia reale, continuiamo a notare, grazie a Marchionne, perché se vediamo per i settori, se levassimo l'auto, sì, mezzi di trasporto, e qualcuno dice che in realtà è una ricostituzione della logistica. Certo, neanche, perché se guardate l'andamento dei veicoli, quelli proprio ad uso individuale, il dato è lì dentro vede, non è che questo paese ha avuto un boom di logistica e stiamo spostando tutti le merci come tanti bravi soldatini. E questo è il problema. Dopodiché possiamo trovare tutti gli alibi che vogliamo, c'è un indebolimento, ma soprattutto un'altra delle cose che a me sinceramente fanno incazzare è avere letto fino a ieri l'altro: l'Italia, grazie alle riforme che sta facendo, è isolata dai problemi della congiuntura globale, quando sono almeno 6 mesi che stiamo segnalando che il rallentamento degli emergenti è inevitabile e fatale che vada ad abbattersi sui paesi sviluppati, e qui il terrorismo non c'entra un accidente. No, ma la follia poi è che, infatti, la sparizione nella newsletter del Presidente del Consiglio di ieri del consueto argomento che da 2 trimestri andava avanti a battere gli effetti del jobs act e delle decontribuzioni, perché abbiamo fatto ruotare la componente più tutelata e più stabile del mercato del lavoro. La cosa è ancora più incredibile è che in tutto questo l'effetto di miliardi di decontribuzioni del jobs act, tutte le crescenti, sia miliardi per mille persone. Guardate, pensateci bene voi che state a casa: abbiamo speso miliardi per 1000 occupati a tempo determinato in più fino a ottobre quest'anno rispetto a dicembre dell'anno scorso. 14.527.000 su 14.526.000. Infatti l'argomento è assolutamente sparito dalla bocca di Taddei, di tutti coloro che dicono ah, sta cambiando. I numeri sono questi. Poi voi potete pensare che noi inculchiamo, ce l'abbiamo col Presidente del Consiglio. Bisogna rispettare i numeri per quello che sono, però dirli per quello che sono, senza ogni volta inventarsi un trucco, per così dire. Allora, io ci aggiungerei, scusa, ti ho interrotto però, Mario. No, io avevo terminato, perché il quadro è sufficientemente desolante, non in valore assoluto, perché c'è una crescita esangue, certo, gracile, molto fragile, indotta da eventi esterni irripetibili, questa cosa qua ve la dirò fino alla nausea, e tuttavia il tipo di comunicazione che viene fatto è semplicemente ridicolo, e io noto una continuità, una inquietante continuità col famoso ventennio a colori di Berlusconi alla memoria. Solo che qui probabilmente abbiamo il sistema dei media che è completamente sdraiato su questa situazione. Molto più acquiescente. Quello che capiterà a Repubblica è che diventerà ancora più acquiescente. Io voglio aggiungere due cose che mi hanno colpito molto questa settimana, perché sono rilevanti su quello che vi ha detto Mario, caro Alberto, nato fino a questo momento. Cioè, non sottovalutiamo quello che avviene in BCE, come è comunicato la Draghi, gli effetti che ha sul mercato quello che è avvenuto il 3 dicembre. La realtà è che le misure straordinarie nelle famose carte nautiche non tracciate, in cui la BCE sono sempre più corte, bisognerebbe ammettere che già da un paio di mesi almeno l'effetto delle politiche non ortodosse sin qui era sfiammato sui mercati, che passare da meno 0,2 a meno 0,3 di tasso di depositi non ottiene praticamente nessun effetto, se non quello di alzare un pochino l'asticella di titoli tedeschi che si può comprare sui rendimenti negativi, che l'estensione ai bond locali è anche questo fatto per comprare i titoli tedeschi, perché altrimenti molti dei titoli pubblici non potevano più, esatto, e per il resto stiamo parlando di poca roba, quindi tutti, questa cosa perché la dico? Perché è evidente che quando ci si affida a, nell'inflazione come misura core rispetto all'economia reale, come statuto di una banca centrale, e l'inflazione è determinata e determinante per quello che avviene fuori dalla tua macroarea, tu finisci per avere una politica monetaria le cui linee di prevedibilità sono appese a una cosa che non puoi prevedere solamente certi, e questa è una cosa che diminuirà ulteriormente gli effetti di ripresa sull'economia reale. Vi dicono il contrario, perché la politica vi deve dire che San Mario come sempre ce la farà. E poi seconda cosa, vedete la difficoltà crescente del governo su partite concrete come quella dell'IVA che citavo prima, come quella delle banche di cui ci siamo occupati per sabato, dopo che fanno la risoluzione che vi hanno raccontato per anni che non c'era nessun problema, che non rischiavate nulla né gli azionisti né gli obbligazionisti, vi hanno raccontato che facevano la bad bank e CDP, poi ovviamente hanno scoperto che erano tutte palle, sono dovuti intervenire con un meccanismo di risoluzione messo in piedi in pochi minuti praticamente prima di fare il decreto per le 4, e dal giorno dopo iniziano a porsi il problema dei soldi, no, dei voti di coloro che ci hanno rimesso i soldi, e adesso vi dicono che vi rimborseranno una parte, cari obbligazionisti. Ma cosa vi rimborseranno? Ma come? Con chi? Cioè, è una maniera di procedere da sconsiderati irresponsabili, veramente non sanno di che parlano, e lo dico non con leggerezza, perché io sono molto colpito dal modo in cui su queste quattro banche ci stiamo giocando, e stiamo anche facendo non capire agli italiani che hanno i soldi in tutte le altre banche cosa succederà. Caro Alberto, cosa succede nelle altre commissariate? Le risolviamo e poi facciamo i decreti per dare i soldi a chi le colpite, ma com'è possibile? I soldi per il Fondo Nazionale di Risoluzione li abbiamo già usati tutti per i prossimi quattro anni, ti ricordi? Le banche devono versarli in questi giorni, non so dove li troveranno. Gli effetti sui bilanci delle banche, anche quelle sane, saranno importanti, perché dovranno beccarsi degli importanti accantonamenti su questo. No, la verità è che le altre commissariate, che sono 9-10, sono ovviamente a questo punto in balia delle decisioni. Mi domando che cosa hanno fatto i commissari, visto che gli accantonamenti fatti per coprire i crediti deteriorati delle quattro risanate erano palesemente insufficienti, perché la BCE ha imposto il 17,6%, diciamo. Quindi c'è un tema sia sulle commissariate che su tutte le altre. Certo. I bilanci di quest'anno saranno la cartina di tornasole. È vero che la BCE ha fissato i nuovi livelli del Common Equity Tier tutto sommato in maniera accomodante, però bisogna vedere che cosa succederà della chiusura dei bilanci. Ma ora che il PD si è inventato come possibile emendamento alla legge di stabilità, non so se il governo sarà d'accordo, questo meccanismo che fino a 300 di copertura, dicono fino a 300 milioni per il danno degli obbligazionisti nel meccanismo di risoluzione. Cosa fanno? Li esaminano uno per uno per capire chi era in grado di capire e chi no? Li interroghiamo sotto pentotal? Ma scherziamo? Tra l'altro Nicastro ha ricordato che la BCE ha posto come vincolo che non ci possano essere riscontri sulle subordinate, perché quello è il prezzo da pagare, quindi girarci intorno diventa veramente un altro inganno dal mio punto di vista. Però tutto questo si annida verso un 2016, speriamo che non tutti questi nuvoloni neri diventino temporale, però... Oscar, posso dire una cosa? Come no? Un paio di cose. La prima è che chiaramente adesso mi viene in mente... Come dicono gli anglosassoni, shit happens, certo. Cioè l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi non è che ci si può, cioè, però non vedere gli elementi di fragilità del quadro e realizzare una composizione della spesa pubblica come è stata fatta nella legge di stabilità dello scorso anno, ma soprattutto di quest'anno, così di scarsa qualità, rischia di trovarci, di farci trovare ancora più vulnerabili al cambiare del tempo e del vento. Più che spesa pubblica lo chiamerei debito pubblico. Sì, no, ma la qualità delle caramelle che tu eroghi. Poi altre due cose al volo, così tiriamo su anche un po' i messaggi. Agli ascoltatori che ritengono che noi stiamo manifestando compiacimento rispetto a questi dati e che di conseguenza per inferenza noi saremmo dei portasfiga, vorrei dirvi che noi siamo razionalisti, che siamo nel 21esimo secolo, che non ci interessano i gesti apotropaici e gli scongiuri, ma noi facciamo analisi di dati. Per cui se voi ritenete che quello che io, Oscar, Carlo Alberto, Renato stiamo dicendo possano esercitare un influsso astrale negativo e di conseguenza peggiorare ulteriormente la congiuntura, fatevela passare, perché non è rompendo il termometro che si debella la febbre. Altra cosa, devo una risposta all'ascoltatore Riccardo, che credo sia un paio di settimane che ce lo sta facendo a sushi con i termini inglesi versus latini. Giusto. Caro Riccardo, ascolta attentamente. Capita che il sottoscritto lavori da quasi un quarto di secolo in un settore dove non si parla italiano ma si parla soprattutto inglese. Pertanto a me viene over 50 anziché ultra 50. A me e al professor Carnevale Maffè viene senior anziché senior, e il plurale seniores, perché purtroppo siamo culturalmente arretrati ed intellettualmente piri. Ma siamo dei gufi poliglotti, dai, seniores i lavoratori e senior le obbligazioni. Anche tu, come ha detto la ex presidente, la ex governatrice del Lazio, utilizzando il vernacolare che è la radice della scuola della lingua latina a cui apparteniamo, fattetene una cazzo di ragione. Però a questo punto devo spiegare anche che Belin non è un'espressione in vernacolo genovese, no? Perché sennò almeno chiariamo quest'ultimo punto. Va bene, torniamo tra un minuto. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Della belva. Eccoci tornati in diretta agli studio, tutti i gufetti, compari dei conti della belva. Mario. Carlo Alberto. Renato. Oscar, ed eccoci qua, abbiamo un ospite a cui teniamo molto perché ha colpito negli anni il modo in cui si batte, anche col suo ultimo libro, per la concorrenza del nostro paese. Ve lo presento subito, partiamo dallo spunto. Lo spunto è quello del rapporto annuale, l'indice delle liberalizzazioni che facciamo noi a Bruno Leoni, e lo abbiamo esteso quest'anno per la prima volta a tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, perché l'anno scorso nella nostra sperimentazione annuale di estensione dell'analisi comparata erano solo 17. Esaminiamo settore per settore tutti i maggiori settori dell'economia, quindi le poste, le ferrovie, l'energia, eccetera eccetera, e in ognuno di questi, con dei criteri specifici settore per settore, verifichiamo qual è il paese con la maggiore apertura e quindi rispetto a quello chi ha fatto più passo avanti e meno passo avanti. L'Italia è praticamente bloccata su 100, passa da 66 a 67, nella maggior parte dei settori non si sposta molto, per così dire. In alcuni settori fa peggio, per la concorrenza nei carburanti e l'energia, per essere chiari. Rispetto ai paesi di testa non recuperiamo praticamente nulla. Il Regno Unito, su un 100 ideale, no? Rispetto a tutti i paesi in tutti i settori, sta a 95, i Paesi Bassi stanno a 79, la Spagna e la Svezia 77, poi vengono l'Irlanda, l'Austria, la Germania, persino la Polonia, poi arriviamo noi. Quello che si vede è un paese fermo su questa faccenda, come del resto si capisce se guardate a quello che avviene in Ferrovie dello Stato. Dopo un anno e mezzo la nomina di vertice aziendale, il governo manda via quegli stessi che ha nominato lui, li manda via dicendo non avevano un piano. Il presidente Messori dice no, veramente ci avete bloccato e avete detto che il piano ce lo dava l'azionista pubblico, cioè il MEF, e il MEF in una commissione che non si è mai riunita non ci ha dato praticamente nulla. Questo è il modo in cui lo Stato sta affrontando la quotazione in borsa e Ferrovie dello Stato, senza capire che bisogna separare prima e regolamentare per evitare di regalare a privati una rendita da sussidio pubblico annuale, in cambio del fatto che i privati non la gestiranno mai perché si accontenteranno di una posizione di minoranza. Stiamo parlando di un'azienda, ripeto, alla quale dal 1992 a oggi, a fine 2014, abbiamo dato senza neanche criteri di rivalutazione monetaria, abbiamo semplicemente fatto la somma dei sussidi anno per anno, la bellezza dal 92 al 2014 di 219 miliardi di euro di sussidi tra conto economico e conto esercizio, cioè stiamo parlando di una cifra superiore al 10% del totale dello stock del debito pubblico italiano, eppure non ce ne occupiamo e per un anno e mezzo abbiamo perso tempo tra litigi. Avevo fatto un come conto esempio qualche... vi do questo avevo fatto esempio un, qua. Un conto qualche anno fa mi costavano 100 euro no ma per però, capirci però, a testa. Però il discorso di Ferrovie, il nuovo capo azienda di Ferrovie, amministratore delegato, nuovo amministratore delegato, sì, capo azienda in quanto titolare delle deleghe operative decisionali, mi pare che abbia esordito dicendo che non c'è nel 2016 all'orizzonte la privatizzazione, per cui il nuovo amministratore delegato delle Ferrovie, diciamo proveniente dalla sua fiorentinità eccetera eccetera, sta spiegando al Ministero dell'Economia i tempi e la tempistica della dismissione parziale delle Ferrovie dello Stato, se ho capito correttamente. Anch'io credo di aver per capito per cui c'è così. Tutta questa effervescenza dove praticamente tutti stanno al loro posto, i vecchi dicendo questo ci ha impedito di quotare e di fare l'incasso. Esatto, arriva il Mazzoncini, quello che ha risolto il problema dell'azienda dei trasporti di Firenze in una gara in cui all'ultimo momento sparì la lista dei concorrenti, questo è il modo in cui è stato risolto il problema, dice più o meno la stessa cosa. Non se ne parla perché non abbiamo le idee chiare su come fare, si separa, cosa si separa dalla rete rispetto alle sole attività aperte alla concorrenza, oppure tutta Trenitalia compresi i pendolari, eccetera eccetera eccetera. Va bene, allora ne parliamo però un secondo di tutto questo con chi? Con l'amministratore delegato e direttore generale di Conad, quindi grande distribuzione italiana, Francesco Pugliese, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e grazie a voi di avermi chiamato. Come avrà capito, noi siamo molto polemici su questi argomenti, però lei ci va giù duro quando parla di concorrenza, e questo, diciamo, anche nel settore in cui lei ha costruito i successi di Conad, non è proprio così frequente, per così dire, perché molti chiedono invece regolazione, regolazione, regolazione nella grande distribuzione. Com'è che lei ha questa vena così pro mercato e concorrenza? Guardi, non fosse altro che per un motivo. Conad è una cooperativa di imprenditori che nasce nel 62 e al centro e al cuore dei suoi valori era proprio quello di rompere dei meccanismi che erano governati tutto dall'ingrosso intermedio e da grandi catene succursaliste che mettevano in difficoltà quello che era piccolo dettaglio. Attraverso questa operazione di messa a fattore comune con questo modello cooperativo di imprenditori, risottolineo, di imprenditori, è riuscito ad arrivare in questi 50 anni ad essere secondo sul mercato. Quindi è qualcosa che è nel DNA di questa impresa. Ma in più sono fermamente convinto di un fatto: non ci può essere modernizzazione in nessun paese se non c'è liberalizzazione. E liberalizzare non significa che necessariamente ognuno di noi deve fare quello che crede, ma all'interno di una bella cornice di regole si possa scegliere ed operare nell'interesse della propria impresa e dei cittadini. Non credo che questo sta avvenendo, e quindi vado subito al dunque, né nei farmaci né per ciò che riguarda le benzine, per esempio. Già. Farmaci, stiamo parlando di farmaci di fascia C, disegno di legge concorrenza presentato dal governo, estensione della facoltà di vendita alle parafarmacie, naturalmente emendamento contrario, salta questa norma perché la lobby delle farmacie si riattiva e tutto resta così com'era, per dirne. Tra l'altro, quello che non comprendo è questo: proprio l'associazione dei farmacisti, che tra l'altro vedono dei loro associati nelle parafarmacie, perché la parafarmacia, esatto, italiana, proprio su pressione dell'associazione dei farmacisti, quando ci fu le prime lenzuolate di Bersani, devono necessariamente avere al loro interno, per tutta la durata di apertura, e quindi risottolineo tutta la durata di apertura, un farmacista iscritto all'albo. Oh, sì. Allora, dispensare salute, come dice qualcuno di Federpharma, non lo si fa solamente perché si hanno intorno alla testa quattro mura dove c'è una croce che dice farmacia, e invece quando ci sono quattro mura dove c'è una croce che dice parafarmacia, il farmacista di punto in bianco diventa un'altra persona. Questo è il primo dato. Il secondo, noi stiamo facendo una petizione di firme, raccogliendo tra i cittadini e sulla rete una richiesta che viene da parte nostra, ma non solo nostra, da consegnare al Presidente del Consiglio per la liberalizzazione appunto di questi farmaci. In sole 4 settimane oramai siamo arrivati a oltre 90.000 firme, con il dato che è di ieri, sia sulla rete che nell'ambito dei negozi. Appena arriveremo alle 100.000 le consegneremo il primo blocco al Presidente, ma andremo avanti in questo senso. E voglio ricordare una cosa al Presidente dell'Associazione dei Farmacisti: quando si è liberalizzato i prodotti da banco, si è portata una diminuzione di quelli che sono i prezzi per i cittadini su quei prodotti. Siccome sento e vedo scrivere delle cose che sono false, perché i numeri si possono tranquillamente manipolare. Ah sì, lo abbiamo visto. Ne sappiamo qualcosa, diciamo. Appunto. Dica. Si possono tranquillamente manipolare. L'AIFA, che fa appunto una rilevazione rispetto a questi farmaci di classe C, porta un dato dal 2011 al 2014 che sembrerebbe non essere in discesa. Peccato però, e la dottoressa Lacca invece lo sa benissimo, che ci sono una serie di farmaci che erano appunto in quelli prescrivibili, che sono passati in questi da banco, con un costo medio di 12 euro, che hanno portato il costo medio di quei farmaci da banco, che prima si vendevano solo anche nelle parafarmacie, dai 6 euro agli 8,6 euro. Lei capisce bene che a quel punto c'è stato un, a livello di totale fatturato, ma evidentemente loro non sono abituati ad operare nella grande distribuzione guardando le virgole per poter fare il profitto, lavorano molto all'ingrosso, sono facilitati nel portare il profitto, perché non ho visto mai una farmacia che è fallita in Italia. Già. Alcune comunali ci tentano disperatamente di fallire, però non sono ancora riuscite, malgrado volenterosi tentativi, esatto, di questo tipo. Però aspettate, torniamo tra un minuto che abbiamo un'informazione stradale. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... della belva. Allora, stiamo parlando, cari amici ascoltatori, con tutti i compagni Conti della Belva qua in studio e con l'amministratore delegato e direttore generale di Conad, Francesco Pugliese, di concorrenza. Stavamo parlando appunto esempi di concorrenza che stenta a prendere il volo, quella del farmaci di fascia C, parafarmacie versus farmacie. Ogni anno ci si prova, ogni anno non ci si riesce, e Francesco Pugliese stava documentando come gli effetti di questo vanno al consumatore, ovviamente, e non siamo in questo paese scevri fuori anche dal negarci manipolazioni per tentare di invece dimostrare il contrario. Senta, Francesco Pugliese, noi abbiamo un ascoltatore che ci dice: ma voi di Conad, giustamente, vi battete per la concorrenza, ma per esempio i vostri fornitori riuscite a pagarli in tempi accettabili, o come altri nella catena distribuzione versus fornitori, per esempio alimentari, siete fuori con l'accusa sui tempi come lo Stato che non paga? Le do un dato che peraltro è certificato, lo può documentare anche l'associazione dell'industria di marca piuttosto che delle piccole e medie imprese. Noi già prima dell'articolo 62 a cui si riferisce lei, che è quella legge che ha regolamentato ciò che doveva essere tempi di pagamento soprattutto per le merci alimentari e quelle di prodotti freschi, eravamo la catena insieme ad un altro 3 o 4 che pagava puntualmente rispetto agli accordi. Lo facevamo allora, lo facciamo adesso, quindi siamo perfettamente in linea. Peraltro, per sopperire a ciò che è stato questo effetto di passaggio di liquidità dalla distribuzione all'industria con questa riduzione dei tempi di pagamento, perché quello è stato l'articolo 62, certo. Noi anziché piangerci addosso oppure continuare a fare come pensa qualcuno e come si pensa all'italiana, visto la telefonata che ha ricevuto, non abbiamo fatto niente altro che triangolare nel mercato del credito noi fornitori e un importante istituto che è Unicredit, e abbiamo fattorizzato quello che erano i nostri debiti nei confronti della grande industria, sto ragionando di 1.700.000.000 che abbiamo fattorizzato in modo che noi potevamo finanziarci attraverso Unicredit se nei momenti in cui avevamo necessità di allungare i nostri tempi. Il fornitore al contempo aveva la garanzia del pagamento puntuale e l'ha, o addirittura lui può addirittura anticiparseli, perché da cuscinetto, ed una volta la banca che fa la banca, agisce da cuscinetto e fa da finanza sull'uno e sull'altro fronte. Quindi siamo per le regole, le vogliamo rispettare anche in quel caso, e noi oggi siamo fra quelli che ci lamentiamo molto rispetto a questa legge che è messa in campo, perché sappiamo che ci sono situazioni in cui questa legge dell'articolo 62 non viene rispettata, certo. E vorremmo uno Stato che intervenga e punisca. Cioè, il tema è vivere in un paese nel quale le regole ci sono, che sia più liberalizzato, che ci siano i controlli e non che ogni volta facciamo finta. A questo proposito, caro Alberto, c'è un tema che riguarda esattamente un tema di concorrenza, anzi di raccolta di capitali, di risparmio fuori dalla vigilanza che merita questo settore, come si vede, fatto da pezzi del mondo cooperativo. Caro Alberto, c'è una cosa che sta capitando, diciamola? Sì, che alcune cooperative raccolgono capitale al di fuori degli schemi di garanzia, quindi non pagano i costi tantissime, e ci sono miliardi e miliardi di euro raccolti fuori dagli schemi di garanzia della BCE, fuori dai bolli e fuori dalla trasparenza. E questo, di fronte a crack che sono avvenuti, di cui i grandi giornali non hanno parlato, la gente ci ha rimesso un mucchio di soldi. Adesso Banca d'Italia sta emanando norme nuove, noi abbiamo il sospetto che le stia contrattando con le cooperative, con Lega Coop. Ci torneremo sopra, perché questo è un grandissimo tema, perché non esiste che c'è un pezzo del mondo del risparmio non tutelato, perché sono gli amici degli amici. Allora, intanto grazie a Francesco Pugliese, torniamo dopo il giornale radio tra un po' di minuti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Fratelli d'Italia, l'Italia alle vesta, dai tempi di Cipro finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qua, eccoci tornati in diretta dopo le notizie del giornale radio, i compagni dei conti della Belva, Mario, caro Alberto, Renato e Oscar. Abbiamo un po' di telefonate sui temi che abbiamo trattato sino a questo momento, anche qualche messaggio. Mario, c'è anche qualche messaggio? Dai. C'è questo ascoltatore che scrive tutto maiuscolo, pertanto urla. Si dice: fate i nomi di chi vi scrive che siete dei sobillatori con due B, ma va bene lo stesso, contro lo Stato, che li vado a trovare io direttamente nei loro domicili. Questi STR, però grazie Verino, Verino Paciocco, se sia il nome vero, falso, eccetera. Grazie comunque. Un bel Paciocco, grazie. Che qualcuno ci difenda da coloro che dicono che noi siamo gli inculcatori. Ma quali inculcatori? Ma noi siamo anche gli inoculatori del virus del dubbio. Esatto, però ripeto, tenete conto che dopo quelli c'è sempre una C di differenza rispetto a chi magari non ce l'ha e domina nel dibattito pubblico. No, noi i numeri li rispettiamo e pretendiamo però che ci sia un dibattito che li rispetti, ecco. Sentiamo Massimiliano da Milano. Massimiliano, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi ricollego a una cosa che ho sentito stamattina che mi ha fatto dare il sangue alla testa. C'era un amministratore che ci concedeva, per a chi non riesce a pagare le tasse, di eseguire dei lavori e dei servizi. Allora, ci sarebbe da dire innanzitutto che questi sono quelli che deliberano la spesa corrente, che ci mette nelle condizioni di non pagare le tasse, e poi ci fanno questa concessione. Poi, visto che io amministro una impresa che essenzialmente fa ristrutturazioni e restauri di opere pubbliche, questi ci fanno pure una concorrenza sleale, perché non mettono neanche più in gara queste cose. Dico, quando è che la finiremo? Quando è che seguiremo un po' un esempio inglese di eliminazione di un po' di burocrati? Ma nel senso, una vita no, normale, mi spieghi una cosa, ecco, che non ho capito. Sì, com'è possibile, sì, che così decidono discrezionalmente di non fare più le gare, o perché fanno l'aggiudicazione sotto soglia minima per l'aggiudicazione di gara? No, è questione che non ci sono più soldi per fare opere pubbliche. Semplicemente non le fanno e basta, ho capito. Certo, perché sono indirizzate diversamente. Ma allora, ma è peggio dello sceriffo di Nottingham, di Robin Hood, qua siamo. Dobbiamo andare a lavorare gratis come schiavi per eseguire quei servizi per cui paghiamo le tasse. Ma non è più possibile andare avanti. Non è più possibile. Guardi, ieri mi ha molto colpito l'assenza di qualunque reazione nell'arco della giornata nell'apprendere. Ieri Repubblica ha fatto una pagina in cronaca nazionale, era, nella quale spiegava che ormai in sempre più numerose grandi città italiane, Firenze, Bologna, Napoli, Venezia, Torino, i commercianti devono pagare tariffe ad hoc, come tariffe di noleggio, per i servizi dei vigili della polizia municipale. Ovviamente ciascuno di noi già paga le tasse per questo. Allora, mi ha fatto molto riflettere un paese nel quale, pagando noi non poche tasse per avere sicurezza, polizia municipale e così via, e belle addizionali locali sui mattoni, sui servizi divisibili e sui rifiuti, poi lo Stato, l'amministrazione locale, ci chiede di pagare tariffe di noleggio ad hoc per servizi dati dalle stesse polizie municipali. Nessuna reazione a questa scoperta, che lo Stato, come vedete, è sempre più tecnicamente ladro. Perché in teoria io quei servizi li ho già pagati e non devo pagare tariffe di noleggio per agenti pubblici a tempo. Invece sta diventando questo il nostro paese. Allora, Lino da Taranto. Lino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, complimenti per la trasmissione, l'ascolto sempre. Io ho un figlio e un genero che lavorano all'IPA. Ah, solidarietà. Ecco, volevo solamente dire una cosa: devono mettere non solo all'IPA, ma a tante aziende, gente capace, gente che sa cosa deve fare, non quelli che sanno come razzolare per quanto riguarda questa cosa qua. Poi volevo chiedere una cosa per l'INPS. Allora, il governo cosa ha fatto? Ha messo Inpdat e INPS tutto assieme, sì, nel calderone, mm-hmm, ma l'INPS all'epoca era ancora inattivo. Mm-hmm. Come mai ha fatto tutto questo imbroglio per mettere l'Inpdat in mezzo all'INPS, che non ha mai pagato contributi? L'inizio risponde da questo, e lo ha fatto proprio perché altrimenti l'Inpdat sarebbe dovuto andare a gambe all'aria, e invece in questo modo non è così. Cioè, lo ha fatto per tutelare i soggetti che avevano versato i contributi all'Inpdat, ma il regime attraverso il quale quei regimi di contributi venivano versati rispetto alle garanzie date al meccanismo di determinazione degli assegni pagati era così squilibrato che c'era un unico modo da fare per salvare la gestione, e cioè annegarla nell'attivo dell'INPS, ed è quello che ha determinato il balzo in avanti, che resterà per un orizzonte di un decennio almeno, del buco patrimoniale annuale che noi ci troviamo in tutti i bilanci dell'INPS all'ordine di 9-10 miliardi l'anno. Malgrado questo si aggiunge, non confondete la parte di buco patrimoniale rispetto a quello dal conto economico annuale. Nel conto economico annuale ci sono già poco meno di 100 miliardi di trasferimenti pubblici annuali all'INPS dalla fiscalità fiscalità generale, perché rispetto ai 330-340 miliardi di prestazioni erogate, ciò che l'istituto raccoglie dalla contribuzione del meccanismo di ripartizione è pari a 210-212 miliardi. Ecco, distinguiamo però la tua domanda tecnica, la risposta tecnica è per questa ragione qua. E invece per la prima parte io sono d'accordo con te, noi da qui ci sono i commissari pubblici nominati prima dai magistrati e poi per decreto del governo, non abbiamo più un bilancio dell'ILVA, l'ultimo bilancio quindi quello del 2011 privato, da allora noi non siamo in grado di avere la perspicuità dei conti dell'ILVA, è gravissimo quello che è avvenuto. Quale piano industriale? Non c'è un piano industriale, si va al lumicino, questo che era il secondo gruppo siderurgico europeo, il quinto mondiale, è di fatto avviato alla morte, e la novità di oggi, questa NewCo che vorrebbero costituire, cioè CDP tanto per cambiarci, entro giugno, serve solo per evitare la mannaia inevitabile oramai dopo anni dell'infrazione europea, ma purtroppo lì un'idea chiara non c'è. Non esiste un paese al mondo in cui si nazionalizza per via giudiziaria coi PM prima dei processi, inaudita altra parte, non esiste. Non voglio difendere i Riva rispetto alla gravità di quei reati, in tutti gli altri paesi per gravità di quei reati si processano personalmente i manager, i proprietari eccetera, ma non si chiudono le aziende come è avvenuto, e non si sequestrano gli input di produzione, gli stock di prodotti, come è avvenuto in Italia. Una follia, mi dispiace dirlo, io penso che anche chi è ambientalista abbia capito che è tutta una follia questa vicenda, dove rischiamo lavoro, reddito, patrimonio, export, gettito fiscale, boom, vabbè, d'accordo, tutti contenti così. Allora, qualche altro sms, Mario? No, direi che... Ah, c'è un ascoltatore, tornando sul concetto dei numeri, che dice: bella cosa il rispetto per i numeri, anche i numeri che illustrano l'innalzamento della temperatura media degli ultimi 100 anni forse andrebbero rispettati di più, invece pare che alcuni termometri siano comunisti e non vadano guardati. Diciamo, questo è un argomento molto complesso che richiederebbe, sì, diciamo, sì, forse un tema ad hoc, però diciamo che non, bisogna stare attenti alle correlazioni dirette e immediate, no? Voglio dire, poi tra l'altro io sono molto affascinato da questo tema, non riesco a capire come sia possibile pensare a puntare di tagliare un grado e mezzo, due gradi di temperatura, no? come obiettivo programmatico, soprattutto quando ci sono paesi come l'India e la stessa Cina, che però sta evolvendo, ma soprattutto l'India, che rivendicano il loro diritto di produrre CO2 perché devono svilupparsi, soprattutto devono continuare ad utilizzare il carbone, perché diversamente la loro immediata conversione ad altre fonti energetiche li metterebbe in ginocchio. Per cui, se, caro ascoltatore, se questo è una critica al sistema capitalistico eccetera, forse bisogna fare attenzione, perché ci sono in questo momento paesi che non fanno parte del sistema capitalistico in senso stretto e che però rivendicano il loro diritto a inquinare. Poi, se possiamo incolpare i paesi sviluppati di tutte le maggiori inequizie, facciamolo pure, però diciamo che l'argomento è un po' più complesso, no, di così. Comunque qui ci torneremo dopo COP21, dopo la conferenza di Parigi, ci torneremo con una puntata ad hoc, dando spazio a chi obietta brutalmente, secondo me sono diventati dei baracconi e i cui grandi piani sono o non perseguiti o non perseguibili. Questa è la grande divisione degli obiettivi. Il che non significa che non bisogna stare attentissimi all'effetto, però poi le semplificazioni sull'effetto antropogenico sul clima, le semplificazioni sulle responsabilità eccetera eccetera, le amiamo poco. Del resto, come avrete capito, noi siamo dell'idea che a problemi complessi si danno soluzioni giustamente complesse. Chi in compenso le distorsioni sugli investimenti sono state chiarissime, enormi, misurabili, sì, esatto, quelli enormi. Sono stati danni veri, vedi quanti miliardi poi diamo noi al... È un'altra faccia del paese ricco che dice: adesso che tocca a te, stai povero. Capito, e non consumare. Povero. Perché loro dicono: come, noi siamo late comer, siamo arrivati dopo, però anche voi avete fatto questo, perché adesso noi dovremmo avere voi che ci tocca dite cosa allora. Non fate. Giovanni da Milano, rapido, Giovanni. Sì, ciao, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. No, io vorrei fare, non vorrei uscire dal tema. No, no, vai pure, non ti preoccupare. Allora, io vorrei fare una piccola premessa. Innanzitutto bisognerebbe che i nostri politici adottassero un principio di dipendenza da noi, perché loro sono nostri, dovrebbero essere nostri dipendenti, invece loro si comportano da nostri datori di lavoro. Sì, questo esatto. È il principio, da veri padroni. Ecco, è il principio sacrosanto su cui si dovrebbe basare la nostra Ma detta questa premessa? Ecco, detta questa premessa, loro in questo senso loro dovrebbero utilizzare i nostri soldi in modo oculato. E io ho due piccole ricette. Due piccole ricette. Vai, però rapido. Sì, rapido. Allora, innanzitutto, intanto stiamo vedendo dalle lotte intestine che i vitalizi non si potranno mai togliere. E quindi? No, almeno regolamentiamole. Io dico. Lo stanno già facendo. Il secondo esempio? Il secondo esempio. La seconda idea era quella di regolamentare anche quelli che sono i loro rimborsi spese. Vabbè. No, ho capito. No, cioè, sì, però voglio dire, in questi anni abbiamo capito che, abbiamo capito. Ieri abbiamo bocca d'utri di questo l'ex SEL PD che oggi si occupa delle finanze anche del partito, che è questo che dice che bisogna levare il minimo sotto il quale gli esercenti non possono più dire per il pagamento non posso fare con la carta di credito, perché altrimenti viene sanzionato. Io gli contestavo questo meccanismo della sanzione obbligatoria, intervenire per altre cose, per diffondere la moneta elettronica, piuttosto che con la sanzione obbligata per far perdere ulteriormente margini chi come tabaccai vende prodotti dello Stato ad agio fisso, tra la visione di chi pensa al mercato. Va bene. Pensa e allora Boccaduti a un certo punto mi dice perché poi voi siete quelli che dicono che troppi soldi ai fondi parlamentari dei partiti senza i quali noi non abbiamo chi ci scrive le leggi. Dico guardi, scusi, non è Boccaduti, lei c'ha già fior di migliaia di euro al mese per pagare i collaboratori, ce l'ha o non ce l'ha? Sì, ma servono per i biglietti no, e allora se li faccio abbastanza. Abbia pazienza, non le vuole Boccaduti. Caro Giovanni, c'è chi ci prova, ma stiamo rimbalzando su questo tema qua. Torniamo tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compagni di Conti la Belfa, cari ascoltatori. In settimana, in questo blocco di grandi report dedicati, alcuni solo alle pensioni, quello dell'Ocse e anche lista, e altri come Banca Italia, un monitoraggio completo relativo al 2014, lo stato 2014 dei redditi e dei patrimonio delle famiglie italiane, diciamo un set di dati su cui c'è molto da riflettere. Io devo dire la verità, sono stato molto colpito soprattutto da due cose, perché quello dell'Ocse conferma quello che sappiamo purtroppo, che i limiti del nostro sistema a ripartizione nel cambiamento tra retributivo e contributivo, quindi abbiamo un sistema i cui effetti è quello di avere una bassissima occupabilità per i giovani, bassa partecipazione per i giovani al mercato del lavoro, contemporaneamente bassissima partecipazione al mercato del lavoro anche gli over 60, ben 20 punti di distanza dalla media OCSE, quindi la gente va in pensione prima, continua ad andare in pensione prima delle medie degli altri paesi avanzati, ma con un sistema che manda i giovani sul lavoro dopo, peggio formati per i limiti del nostro sistema di formazione e sulle cui spalle gravano aliquote contributive che sono necessarie poi per finanziare le pensioni a cui loro non avranno mai diritto. E nei numeri di Banca Italia infatti mi ha colpito soprattutto questo, perché mentre, come è giusto, tanti pensano che il problema nella crisi, seguendo Piketty, sia quella dell'aggravarsi della distribuzione di reddito e patrimonio a favore dei ricchi, e le cifre di Banca Italia dicono, non dicono questo, anzi dicono che il contrario, 2012-2014 se uno va a vedere patrimonio, cioè ricchezza, sono il 20% degli italiani nella parte alta della piramide sociale che hanno perso molto di più, perché lì si è concentrato il più della perdita del valore immobiliare del mattone per la sberla fiscale sul mattone. E invece c'è un altro fine della mia considerazione, vero divario abissale in progressivo ampliamento, che è quello tra giovani e i più anziani. Pensate che nella distribuzione dei patrimoni in 20 anni, 95-2014, quindi se sommiamo gli effetti della riforma Dini, passaggio troppo diluito da retributivo a contributivo in orizzonte pluridecennale, e quella Fornero per emergenza troppo rapida nell'alzare i tempi di pensione, la somma di tutto questo significa però dal punto di vista della distribuzione dei patrimoni, partendo da base 100-1995, per le famiglie con capofamiglia sotto i 34 anni, in 20 anni passano da 100 a 40, cioè perdono 60 punti, quelli con capofamiglia sopra i 65, quindi anziani, vanno da 100 a 160, guadagnano 60 punti. Se pensate al reddito, invece, il reddito equivalente di coloro che sono sotto i 34 anni passa da 187, perde 13 punti, mentre per quelli che hanno sopra i 64 va da 100 a 113, quindi anche qui stiamo parlando di 30 punti persi tra, a favore degli anziani rispetto ai giovani, un divario abissale che non c'è nella politica italiana come focus, visto che vi abbiamo detto prima come sono i dati sull'occupazione. Mario ci ha ricordato per coorti d'età che cosa succede davvero sul mercato dell'occupazione italiana, e basta vedere i fogli Excel di Istat, ma non però vedere quello che vi dicono i politici. Allora, noi per parlare di tutto questo abbiamo invitato una persona che stimiamo tantissimo, che abbiamo imparato a conoscere, io non la conoscevo prima, nell'ultimo anno, per come si batte, per il rigore con cui si batte, che ci sta molto a cuore, su, contro le manipolazioni dei numeri dell'economia nelle release pubbliche di diverso tipo, che è stata colei che per esempio ha messo alla frusta per prima il sistema che era stato adottato dal Ministero del Lavoro per la comunicazione delle attivazioni e cessazioni sul mercato del lavoro, e che infatti è cambiato grazie anche all'impegno di persone come lei. Lo fa con rigore, poi ha delle opinioni che non è detto che noi condividiamo, ma il rigore per cui si batte per questo per noi è diventato un punto di riferimento molto apprezzato. Quindi l'abbiamo invitata proprio perché la ringraziamo, speriamo che torni presto, se accetterà questo tipo di inviti. Si chiama Marta Fana, e Marta Fana è una PhD a Sciences Po a Parigi. Trovate i suoi scritti, spesso intervistate sul Manifesto, sul Fatto Quotidiano, e io mi auguro sempre su altri quotidiani settimanali italiani, sempre più. Grazie di essere con noi, Marta. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, in questi numeri delle famiglie, reddito e patrimonio, ti colpisce di più quale aspetto? Quello che indichiamo noi, quello delle generazioni, o dici no, aspettate, però comunque c'è un problema relativo anche alla distribuzione per reddito di ricchi e poveri, insomma Piketty, per capirci in due parole? Sì, diciamo, io più che altro guardo sicuramente al problema giovanile, ma mi sembra abbastanza ovvio se pensiamo che circa 200.000 giovani sotto i 29 anni oggi lavorano a voucher. Già. Ok, cioè partiamo da questo, partiamo che abbiamo degli stipendi, salari, retribuzioni di qualsiasi tipo da fame, lavorando tantissimo. E non me la prendo con il problema. Noi l'abbiamo detto prima quando non eri collegata, che Job Act o non Job Act, Job Act non cambia niente, visto che abbiamo solo 1000 occupati. Ricordiamolo, perché la pubblicità dice il contrario di solito. Sì, no, questo cerchiamo di ricordarlo tutti i giorni, perché cioè, di questo tipo di propaganda non ne abbiamo per niente bisogno. Ne continuiamo a avere 3 milioni di disoccupati, i disoccupati diventano inattivi, non trovano lavoro. Esatto. Vogliamo fare una media con l'Europa, un ultimo dato che è uscito circa 15 giorni fa, ce lo dice l'Eurostat, noi abbiamo il triplo di disoccupati che tra il primo e il secondo trimestre del 2015, quindi a Jobs Act in vigore, diventano inoccupati. Abbiamo circa il 35% contro una media del 18-16%. Allora, torniamo a dire dei giovani, perché stavi partendo. Torniamo ai giovani. Il mio problema, appunto, io la vedo molto più come una questione di disuguaglianze, non disuguaglianze intergenerazionali, ma proprio di posizione. Ce ne abbiamo. Ad esempio, che il 25% delle famiglie con capofamiglia operaio è povero, ad esempio, e il 9% degli operai sono tra il 10% più povero in termini di reddito, a confronto con lo 0,9% degli imprenditori. Ora, in Italia abbiamo un'altra cosa di cui si parla molto poco in termini di disuguaglianze, è che siamo, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito, il paese in cui le disuguaglianze intergenerazionali in termini di mobilità e di eredità è più forte, sì, sì. Tra i paesi OCSE. Quindi il mio problema è quello di dire: è vero che non ho una casa, è vero che il welfare in Italia è premoderno, questo significa che le ricchezze, cioè al di là, cioè chi oggi a 60 anni ha la casa potrà lasciarla in eredità senza tassazione quasi ai figli, chi non ce l'ha, cioè oltre il 20% delle famiglie italiane non possiede immobili, non lo potrà fare. Quindi è vero che oggi ci troviamo in una situazione in cui le generazioni, perché è ovvio, se i miei genitori nei primi anni 90 avevano un lavoro stabile e hanno potuto fare risparmi e comprare una casa, io non lo potrò fare. Marta, ma tu non credi che... siccome quello che hai detto fino a questo momento sono numeri, cioè sono fatti, no? Cioè, il problema è, per così dire, avere delle priorità in testa. e per evitare che questo abisso a danno delle generazioni più giovani continui a essere purtroppo alimentato dai meccanismi di fondo di come funziona il welfare italiano, di come funziona il meccanismo di finanziamento del welfare italiano e così via. Cioè, io temo molto l'effetto autoalimentante di questo loop che si autovita. Allora, la considerazione che faccio io, ma siamo sicuri che non bisogna intervenire con un drastico cambio del meccanismo di finanziamento contributivo della previdenza, visto che questi 20 anni di cui ci ha dato i dati Banca Italia sono quelli che sommano i due interventi sulle pensioni. E perché vi dico questo? Perché il sistema di ripartizione funziona, ce lo insegna insomma la matematica attuaria e previdenziale, finché la crescita media annuale è buona, e infatti è stato concepito in anni in cui era addirittura al 3% e più media annuale, e poi funziona in continuità di regole. Quando ci sono discontinuità o di crescita media annua, oppure con riforme come la Dini, cambio di sistema retributivo a contributivo, molto diluito, ma questo, oppure di tempi molto rapidi come la Fornero sull'età pensionabile, il meccanismo di finanziamento a ripartizione impazzisce, diventa una specie di schema Ponzi in cui ci sono delle vittime chiare e dei privilegiati. In questo caso le vittime chiare sono quelli chiamati, non avendo continuità contributiva, andando tardissimo a lavorare eccetera eccetera, a pagare contributi altissimi per pagare pensioni a chi le ha avute con altro sistema e che loro non avranno mai. E io mi chiedo, ma non è più di sinistra pensare cambiamo in equilibrio naturale durante tutto l'anno il modo in cui far pagare i contributi? Ma chi è giovane e ha meno continuità contributiva deve pagare contributi più bassi, non bisogna ragionare solo in base a quanto prende al mese. Tu cosa dici rispetto a questa impostazione? Ma io dico due cose. Sicuramente abbiamo un problema, cioè se non abbiamo redditi, quindi crescita dei redditi, dei salari, degli stipendi, cioè è inutile parlare certo. di nulla, cioè non ci sono le risorse, zero. Poi mi dico un'altra cosa, dico tutti questi privilegi, no? Cioè c'è gente che è andata in Italia in pensione con 15 anni e che noi trattiamo come diritti acquisiti, non so, io su questo ho forti dubbi. Dico, perché io, cioè è vero che magari io potrei tutti i miei colleghi che lavorano a partite IVA, finte partite IVA, è giusto pagare di meno. Ma io mi chiedo perché noi dobbiamo sempre chiedere uno sforzo a chi sta ancora lavorando e magari ha lavorato oltre i 30 anni e non a quelli che invece sono andati in pensione con altissime pensioni prima, che hanno potuto accumulare. Cioè, possiamo essere contro le patrimoniali, contro quello che ci pare, però per me giustizia sociale significa io tolgo a chi ha avuto i privilegi. I miei genitori, come tanti cinquantenni oggi, non hanno avuto questi grandi privilegi, e anzi l'intervento di queste riforme, diciamo, sul sistema pensionistico, dato anche che non esiste un welfare in Italia a supporto delle generazioni più giovani, certo. quelle mie, eccetera, ha fatto sì che i piani di risparmio e di vita, perché poi cioè, se vogliamo credere nell'economia e nei piani intertemporali, certo. dobbiamo anche dirci che hanno fatto degli sforzi per permettere a noi di avere almeno una casa sì. o semplicemente pagarci davvero il diritto allo studio, che è uno Stato che ci nega. Sì. Io ho fatto 3 master internazionali, un dottorato, l'Italia non mi ha mai dato un euro. Quindi cioè, su questo ho sempre pagato tassi altissimi, ho preso le borse di studio private quando c'è stata la possibilità, e dico ok, cambiamo un po' il sistema, ma rendiamolo realmente equo. Certo. Perché cioè è inutile poi no, che anche la proposta di Boeri, no? Più equità. No, sì, devo pagare 55, l'assistenza. Sono molto d'accordo su quello che stai dicendo. Cioè, non possiamo pagare no, la riforma assistenziale che non esiste. È quello di un riorientamento generale del welfare in termini intergenerazionali. Quando io sento la Camusso che dice Boeri c'ha la fissa del ricalcolo degli eccessi del contributivo, io mi gratto la testa, perché io mi aspetterei che la Camusso fosse favorevole al ricalcolo degli eccessi del contributivo. Dico sì, proprio Io non difendo per niente la Camusso, però appunto mi dico il ricalcolo. No, ma l'ho citata per dire i paradossi di chi non ha in testa che il problema è il riequilibrio intergenerazionale. Ma in Italia c'è poca gente che oggi ha davvero le idee chiare, dico, da partire dal governo, ma cioè nel senso io sono anche critico con il sindacato, lo sanno benissimo quando mi ci confronto. Però cioè giustizia deve essere giustizia, cioè io credo che il welfare e la redistribuzione siano una leva fondamentale. Qui in Francia è vero che non abbiamo salari altissimi, in ingresso sicuramente c'è circa 1000 euro di differenza rispetto alla, no, ai salari di ingresso in Italia. È vero anche che noi cioè, abbiamo proprio il diritto all'alloggio, abbiamo il diritto al salario minimo, e non è che qui pagano meno in termini di contributi, e che i contributi sono molto più progressivi e che le tasse sulla casa sono molto più progressive. Esiste una tassa sull'eredità che in Italia non esiste, e io non posso accettare cioè che alla fine il 5% più ricco delle famiglie italiane detiene qua, in termini di ricchezza e patrimonio, detiene esattamente quanto il 75% della popolazione. Però Marta, ti devo fare un'altra cosa. Guardiamo le due forbici, quella generazionale, cioè giovani e vecchi, e quella invece patrimoniale, ricchi e poveri. Allora, quella patrimoniale è una forbice che si è in realtà, scusami, chiusa, perché abbiamo una variazione in 20 anni della ricchezza media familiare che ha privilegiato in realtà la parte più bassa, medio-bassa, perché la media è cresciuta di 8 punti, mentre la mediana del doppio, ci dice Banca Italia. Invece quella generazionale si è aperta in maniera brutale, cioè abbiamo in 20 anni meno 60 i giovani, più 60 gli anziani. Scusami, più che un problema di redistribuzione della ricchezza, abbiamo un problema veramente di redistribuzione dei rapporti intergenerazionali, quindi più che perché se l'imprenditore, il figlio dell'imprenditore potranno permettersi di avere un patrimonio immobiliare di 1 milione di euro e quello del proprietario continueranno a non avere niente, perché è vero che l'indice di Gini, che poi alla fine misura tutto e niente, è diminuito perché i patrimoni più alti si sono ridotti negli ultimi anni, dopodiché è anche vero che quelli più in basso non hanno ricevuto niente, cioè non hanno perso niente perché non avevano nulla da perdere. Cioè queste cose ce le dobbiamo dire anche quando raccontiamo i dati, dopodiché ognuno può avere la sua idea, relativizziamo. Cioè a me piace molto guardare appunto le distribuzioni incrociate su cui io ci lavoro per la tesi di dottorato, ed effettivamente c'è il problema un 34enne figlio di un imprenditore che ha già delle case, ha una situazione patrimoniale ereditoriale di partenza differente. Questo è ovvio, c'è poco da fare, e naturalmente come si fanno gli incroci delle perdite dipende anche da un po' dal punto di vista. Marta, tu stai parlando con un liberale classico che ha in testa la teoria della tassa di successione vicina al 100%, quindi guarda che non ci dai lezioni di comunismo qua noi, ma comunque Marta, noi ti inviteremo, aspetta che c'è una telefonata relativa al fatto che abbiamo invitato Marta Fano, almeno così leggo. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ma cos'è sto tono di voce? Dall'ospedale. Caro Giannino, pronto? Sì. Sono il presidente Silvio Berlusconi, buongiorno. Ma no, sta scherzando. Cosa abbiamo il... Guardi, caro Giannino, io stavo ascoltando con grande attenzione la vostra simpatica trasmissione, che fa pure rima, e volevo dirle però che ascoltando questa signorina che è in diretta in questo momento sta facendo tutte le sue tesi abbastanza così strane. Ha sentito, i figli degli imprenditori continuano ad avere cose che gli altri... Guardi Giannino, io posso dire una cosa, a me va bene tutto, che tanto io ho capito che anche Confindustria oramai è diventata un covo di comunisti, e pertanto anche sdoganare una signorina come quella che voi avete al telefono indica a questo punto inequivocabilmente che tutti voi di Confindustria siete diventati comunisti. Ma presidente, ma cosa dice? Presidente, ma non è vero. Presidente, io le devo dire una cosa. Dunque, comunista o meno, non lo so, ma comunque chi rispetta i numeri e tenta di interpretarli è la parte della sinistra che mi piace di più rispetto a quella che vedo che governa, che invece i numeri li dà, questi almeno i numeri come Marta li leggono, li interpretano e accettano di confrontarsi, quelli i numeri li danno e dicono che chi obietta, presidente, ma guardi Giannino, lei è amico di Renzi e nemico di chi legge i numeri. Mi consenta innanzitutto, lei non parli male del mio figlio Matteo Renzi, è sangue e sudore dei miei lombi politicamente parlando, e mi sta veramente dando delle grandi soddisfazioni, mi consenta. E questo lo capisco. E dopodiché mi raccomando, perché voi dovete tenere alto il vessillo degli imprenditori italiani, e quindi, come direbbe qualcuno, i comunisti non passeranno. Grazie presidente di questa scherzosa telefonata. Marta, era il modo per dirti che ovviamente tenteremo spesso di ragionare con te, i punti di vista possono essere diversi, ma la capacità di sapere dialogare sui numeri veri, con rispetto dei numeri, secondo me è il contributo che tutti dalle diverse famiglie possono dare a una politica che in tutte le famiglie di rappresentanza è molto indietro. Questo è il nostro giudizio. E torniamo a parlare di tasse di imposti di successione, perché questo è il vero problema. Se non affrontiamo, questo mi fa piacere. E su questo siamo tutti d'accordo. Che è un tema patrimoniale, ma anche organizzativo. Scusami Marta, dico semplicemente che siccome hai citato figli di imprenditori che non sono necessariamente imprenditori ma devono guadagnarsela questa qualifica, parliamo anche di questo, parliamo magari in futuro anche di questo elemento. Grazie Marta, ci risentiamo, torniamo tra poco. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Della belva. Ok, eccoci tornati, però io devo immediatamente rilasciare anche il traffico a questo punto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta della belva. Eccoci qua dopo questo mega blocco di pubblicità, promo, tempo, strade. Siamo collegati con la Cina, con Rita Fatiguso, e mettiamo il nostro jingle del piano quinquennale, del tredicesimo piano quinquennale. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style. Yes, and there's more. Niente, io non ci posso fare niente, io sono sedotto dall'inglese di questa ragazza cinese scelta dal partito per la canzone in Cina ufficiale che promuove nel mondo il tredicesimo piano quinquennale che è adottato adesso e che dà le guidelines della crescita cinese. Allora Rita, sei con noi? Sì, sono con voi e pensavo al traffico cinese, voi fate queste previsioni del traffico sì. Che veramente, cioè, fanno ridere. Mi viene da ridere. Esatto. Mi viene da ridere. Senti, ma tu a Pechino, in realtà, tra traffico perché qui si vedono cose tragiche, smog, sì. Eccetera, eccetera, tu come te la passi lì rispetto, cioè in realtà hai molto peggiorato la tua qualità della vita? Sì? No. Assolutamente sì, perché ovviamente insomma si può intuire, non si riesce nemmeno a respirare in certi giorni, poi tutte le nostre stanze in casa sono anche piene di questi aggeggi per purificare l'aria, insomma è un po' come stare in guerra, ma è anche il posto dove stare adesso. Dal punto di vista giornalistico, no, ma non c'è paghiamo dubbio. Lo scotto, ma insomma, sì, abbiamo peggiorato la qualità della vita. Poi tu ci hai spiegato la prima puntata che è più complicato per i rapporti stimatali che avevi prima, però ci hai rimediato dei cicisbei che fanno parte di tutte le signore cinesi hanno sì. I cicisbei, quindi sì, ma purtroppo cinesi, io non sono cinese, quindi niente cicisbei. Purtroppo sono. Senti, sono raccontaci un po', ma no, nel paese delle grandi garanzie comuniste. Noi qui immaginano tutti che i depositanti bancari, i risparmiatori siano ipergarantiti da sempre, perché il regime comunista ha a cuore i poveri risparmiatori, non come il perverso capitalismo in cui nelle quattro banche risolte due domeniche fa dal governo c'è chi ci ha rimesso dei soldi. Perché infatti, è così infatti. O no? Allora, in realtà insomma questo è un tema che è stato risolto, almeno si è tentato di risolverlo soltanto qualche mese fa ad aprile con gran cassa. Lo stesso governatore della People's Bank of China ha dichiarato che da aprile scorso finalmente si crea questo fondo di garanzia dei depositi, perché prima non erano garantiti, perché era lo Stato. E veramente anche io quando me ne sono accorta c'ero un po' rimasta, perché per noi è un dato scontato, no? E però è anche vero che in un paese in cui la moneta non è assolutamente convertibile, con tutti i problemi che sappiamo, e la facciamo entrare nel panino di riserva per i motivi di cui facciamo entrare nel panino di riserva, nonostante tutto lasciamo perdere, poi si vedrà che succederà. Ma in un paese in cui anche i cambi non sono assolutamente flessibili, non è il mercato a decidere quasi niente, è lo Stato che garantisce i depositi, come faceva a non pensarci in effetti. Ma comunque questo è stato un passo molto importante, perché sicuramente è necessario per le banche tradizionali attirare nuovamente il risparmio che se n'è andato invece in altre direzioni. Cosa fanno le banche anche grandi? Perché lì c'è una quota molto importante a doppia cifra dell'intero mercato del risparmio e degli investimenti del risparmio, che è shadow, cioè è fatta con criteri totalmente extra vigilanza, sì, extra trasparenza, sì, e così via. Anche con indirettamente come protagoniste le stesse banche normali, perché si crea tutto un mercato parallelo con collaterali e tutta una serie di altri truschini che chiaramente poi ogni tanto esplodono con grande rumore. Frangore. E volevo dire che comunque è una situazione molto particolare, perché adesso le banche tradizionali, che sono dei colossi, basti pensare che la ICBC, che è la Industrial Commercial Bank, è la più grande al mondo per capitalizzazione di borsa, questi colossi sono abbastanza in difficoltà, perché c'è una quota di mercato sempre crescente, adesso sul 7 ma è molto rampante, di banche che invece sono online, sono state regolarmente autorizzate e sono banche che si rivolgono a una clientela snobbata normalmente da quelle più grandi, e quindi piccoli risparmiatori piuttosto che giovani coppie, fino anche sembra piccole e medie imprese, che agevolmente possono, quindi non ci sono sportelli, non ci sono, è tutto online, quindi un abbattimento dei costi fissi, niente mattoni, niente enorme. Niente impiegati allo sportello. Ma sti cinesi sono più smart nelle tecnologie, nel digitale, rispetto a noi? Assolutamente sì, però nel momento in cui non sei cinese tutto questo ti viene in qualche modo vietato, perché per poter effettuare un qualsiasi tipo di deposito, investimento su queste piattaforme online banking, no, bisogna avere una documento cinese, cioè non basta il tuo passaporto se sei straniero. Quindi io devo dire, non ho avuto il piacere e l'onore di provare cosa significa avere rendimenti del 7%. Ma un documento cinese cosa vuol dire? Quello... Residente devi essere, no? No, devi avere praticamente la sanità, la tessera sanitaria. Il passaporto, perché vabbè, sono straniera, eccetera. Chiaramente i cinesi, moltissimi, non hanno nemmeno il passaporto, perché non esco mai dalla Cina. Ma deve essere una normale carta d'identità. Cioè una carta d'identità cinese, e senza quella non si possono fare tante cose. Però chi lo può fare e lo fa e ne fa tante, e devo dire che questo un po' è qualcosa che movimenta il mercato delle banche, che insomma è abbastanza elefantiaco, però molto più vivace grazie appunto per una parte a queste nuove tecnologie, a queste novità. Allora, c'è una specie di Consobli, Rita, spiegaci un secondo. Sì, assolutamente, c'è la Commissione per il controllo della borsa, e ogni tanto anche quella viene sottoposta a continui. Voi sapete che è in atto una campagna anticorruzione a tutto campo, e ha toccato anche il numero 2 di questa, che era stato di questa authority, che è stato praticamente in qualche modo accusato di corruzione, quindi di aver praticamente lucrato, distolto. Non è male. Diciamo che nella nostra campagna anticorruzione abbiamo ottenuto la Consob senza commissari per anni, e quindi abbiamo trovato la metodologia all'italiana per renderla meno efficace sotto la gestione devo dire Vegas. Che tra Italia e Cina, le cose che sento che dite voi, che in qualche modo mi arrivano adesso, che mi ricordo, cioè ci sono troppe somiglianze. Cosa devo dire, che Franz. Però vi voglio raccontare una roba velocissima, che è una cosa che mi ovviamente lo straniero allo sportello è veramente in una situazione di grande situazione di stress, perché chiaramente non capisce quello che gli chiedono, va bene. Però ci sono delle altre cose veramente fantastiche. Tipo? La mattina, in un grandissimo centro della banca, che non sto a dire, ma uno di quei colossi, al mattino alle 9, quando si apre, ti fanno praticamente entrare in banca tutti gli impiegati in piedi, c'è parte una musichetta che dura tipo 15 secondi. Ma questo è il cliente ordinario? Non ci credo, dai, no, non ci credo. No, è così, tutti in piedi con i guanti bianchi, tutti in piedi, e c'è una roba enorme, tutti in piedi come una specie di preghiera laica. Sì. Poi finisce e si parte, tipo prendere il bigliettino, vai lì e fai la tua coda. E il pomeriggio, se arrivi il pomeriggio e c'è molta, arriva il carrello con il tè. Vedi? tu sei imbestialito, c'è cioè il numero 3000, è la tutela del risparmiatore, col tè no, e l'inno nazionale. Voglio dire, con tutto il fatto che, però, cose elementari di customer care, che qui col piffero che abbiamo mai visto, col piffero, e quindi... Spesso vado la mattina alle 9 per godermi lo spettacolo, non solo per essere la prima, ma proprio per assistere... La differenza è tra chi ti mette in mezzo con un po' di rispetto e chi invece no. Ecco, questo è tanto per essere chiari, vedere la differenza. Però grazie Rita, siamo andati lunghi Renato, però tanto lo sai che non manca, non è che in una settimana spariranno il numero di esempi delle cose che non si possono, che non si possono fare. Cari ascoltatori, grazie di averci seguito e naturalmente noi speriamo che il presidente Berlusconi, che oggi ci ha fatto questa sorpresa, torni insieme ad altri nostri, perché sono in tanti dopo ad ascoltarci. Essere tornato in studio, torni torni a farci di queste sorprese e soprattutto sentiremo Marta Fara. Vedremo la prossima settimana cosa ci serba di bello la grande Italia, che però questa settimana abbiamo capito, sommando Bruxelles e la newsletter del Presidente del Consiglio, che ha capito che non è ablata dal mondo. Purtroppo non possiamo fare a meno di importare gli effetti. È tornata sulla terra ed è per questo che i pantaloni, l'oro dei pantaloni si era alzato, perché era l'effetto del rimbalzo. Buon fine settimana da tutti noi. Ciao.